Le ondate di calore che stanno riguardando anche la nostra città in questa torrida estate non risparmiano nemmeno i nidi che per effetto di un progetto comunale, insomma, sono aperti. Ne parliamo con Enrico Tabellini dei Cub Cobas, che saluto, buongiorno. Buongiorno, ciao Alessandro. Allora Enrico, voi avete raccolto le segnalazioni di una docente, insomma un insegnante dei nidi, che lamenta non pochi problemi dovuti proprio anche a queste situazione meteorologica estrema. Ecco sì, messa così una segnalazione sembra, diciamo, una cosa molto burocratica eccetera, invece quello che noi abbiamo raccolto è un grido di dolore vero e proprio, un grido di dolore, di denuncia che va per forza fatto conoscere alla popolazione, perché il problema è questo: ci sono 40 gradi in questo momento e l'amministrazione comunale oramai da diversi anni continua a proporre, ovviamente per farsi bella di fronte alla cittadinanza, il famigerato progetto luglio, dove a fronte di un pagamento di un bonus assolutamente misero si decide di tenere aperti tutti i nidi fino a luglio inoltrato. I nidi, qual è però il problema? Mentre tutte le scuole chiudono a metà giugno, e ovviamente c'è una ragione, perché normalmente le scuole non hanno impianti di climatizzazione, sono edifici vetusti eccetera, sui nidi invece si decide di andare avanti fino a luglio inoltrato. Il problema è che con l'ondata di calore torrido di questi giorni c'è arrivata questa lettera aperta, una specie di cronaca di una sofferenza purtroppo assolutamente annunciata, di una fatica, di una sofferenza che stanno vivendo le educatrici, i collaboratori dei nidi, ma soprattutto i bambini. Infatti la domanda che mi veniva era proprio questa, cioè non è faticoso lavorare a 40 gradi, ma pure i più piccoli risentono di questo clima. Assolutamente, in questa cronaca che è molto molto vera, molto cruda, è quasi un grido di disperazione da parte delle colleghe dei colleghi dei nidi che stanno comunque cercando di portare avanti questo, che però non è più, non lo chiamerei neanche più servizio, neanche più babysitteraggio, siamo a livelli di pura sopravvivenza. Ci sono bambini a 40 gradi, loro stanno cercando di montare tende, di creare ombra in ogni posto. I bambini rimangono lì a dormire, stiamo parlando di bambini sotto i 3 anni, bambini molto piccoli, che ovviamente sono in una situazione di sovraffollamento in molti casi. I nidi durante l'estate vengono accorpati e loro scrivono proprio in questa lettera aperta alla cittadinanza e anche alle sigle sindacali che sono letteralmente allo stremo delle forze, assomiglia più a Apocalypse Now che non a una lettera di segnalazione di un problema o di un disservizio. Ti volevo chiedere se è venuto appunto a questi educatori, o se lo faranno in futuro, anche l'idea di contattare l'ASL e i servizi, insomma, che devono vigilare anche se effettivamente negli ambienti sia possibile vivere. Allora, noi come sigla sindacale, come COBAS, abbiamo già ovviamente attivato i nostri RLS, rappresentanti per la sicurezza sul lavoro, perché questo possiamo fare. Ovviamente abbiamo richiesto un incontro urgente all'amministrazione, perché è chiaro che quando queste decisioni vengono prese nel fresco degli uffici dirigenziali con l'aria condizionata, poi non ci si rende conto neanche delle ricadute che hanno, malgrado ovviamente tutte queste ricadute fossero previste e fossero già state dette per tempo. Quindi sì, è chiaro che nel momento in cui i rappresentanti per la sicurezza andranno a valutare questa situazione, noi faremo di tutto faremo tutti i passaggi necessari chiaramente per denunciare questa situazione. Il problema è che siamo a luglio e nel frattempo i bambini anche in questo momento stanno soffrendo. Non c'è la possibilità nel breve termine, insomma, di correre ai ripari installando appunto condizionatori in strutture di questo tipo? Allora, ce la vogliamo cavare sempre col solito pinguino che arriva di corsa? Vuol dire affastellare 60 bambini di 3 anni che piangono, che ovviamente hanno tutte le esigenze dei bambini appena nati, in un unico stanzone magari leggermente più fresco rispetto agli altri. Questo è quello che già stanno facendo le nostre colleghe quotidianamente. Non è educazione, però stiamo parlando di qualcos'altro. Secondo noi il problema è proprio che di questo progetto si vuole, come dire, testardamente portarlo avanti, ma in strutture che non sono adeguate, e non sono adeguate non solo perché sono strutture vecchie eccetera, ma anche proprio per scarsa lungimiranza e scarsa, diciamo, manutenzione. Faccio un esempio su tutti: in un nido, quello trovato da cui scrive la collega, un albero a un certo punto è stato pericolante. Perché? Perché non veniva putato da un sacco di tempo. Qual è stata la soluzione? Arrivare lì e nottetempo tagliarlo. Ovviamente cosa succede? Quello che prima era un giardino è diventato una specie specie di deserto rialzo e quindi non c'è neanche più la possibilità di avere il refrigerio delle piante. Tutto questo ha una radice, la ragione ultima sono le decisioni che vengono prese, come sempre, passando sopra tutte le opinioni, tutte le contrarietà che vengono espresse dai sindacati, dai lavoratori, ma qui di mezzo ci stanno andando i bambini. In questa partita i genitori possono giocare un ruolo una volta che sanno in che condizioni sono costretti a stare i loro figli? Allora, questo è quello che noi stiamo cercando di fare, ovviamente di informare appunto la cittadinanza e in particolare i genitori. Qual è il discorso? Che siamo in un sistema in cui nel momento in cui un genitore arriva a luglio e ovviamente ha difficoltà di ogni genere perché deve andare a lavorare, difficoltà economiche eccetera, il fatto di avere un posto dove poter lasciare, un posto dove ci sono persone preparatissime che conoscono i bambini e in cui possono lasciare i loro figli contando sul fatto di ritrovarli sani e felici alla sera, ovviamente per loro una mano dal cielo. Ma qui non è il gioco di mettere contro i lavoratori le esigenze dei bambini, le esigenze dei genitori, qui è fare fronte comune, ma soprattutto prendere coscienza, rendersi conto che questo progetto non ha possibilità, così come è fatto, di essere portato avanti. Dovrebbe essere pensato per tempo tutta una serie di interventi nei nidi per renderli vivibili anche a luglio, se questo è quello che si vuole fare. Così invece, mi dispiace, ma quello che succede è provocare semplicemente sofferenza nei confronti dei bambini, e non credo che nessun genitore vorrebbe questo. Io intanto ti ringrazio, Enrico, poi ovviamente rimarremo in contatto per sapere se l'amministrazione vi risponde e ha intenzione di, insomma, fare qualcosa di fronte a questa situazione. Noi ci speriamo ben poco, ma ovviamente noi siamo sempre disponibili. Grazie mille. Grazie mille.